in primo piano. Mercoledì 27 aprile. Per la verità sono diverse le aperture, c'è chi sceglie quella economica come il Sole 24 Ore, comprensibilmente. Lactalis lancia l'OPA su Parmalat, Berlusconi atto singolare ma non ostile. Ma poi la scelta della Libia un po' per tutti i quotidiani generalisti, per il Corriere Libia governo sotto pressione, per Repubblica Libia scontro Bossi Berlusconi. Mentre Libero mette il vertice Italia-Francia così, Parmalat e Draghi alla Francia, a noi gli immigrati, che affare. Per la Stampa, Berlusconi, il nucleare si farà, il Fatto Quotidiano, bombe e balle, mentre il Messaggero, bombe sulla Libia, l'ira di Bossi. L'Unità invece titola e riassume così il vertice Italia-Francia con una foto di Berlusconi, debacle, questo il titolo. Vedremo poi altre aperture interessanti, soprattutto sulla Libia. Vi segnalo già La Padania, che è il quotidiano della Lega, oggi da tenere molto in considerazione per gli effetti ovviamente dei rapporti Italia-Francia, la Libia e soprattutto i rapporti di governo tra Berlusconi e Bossi. Ma da cosa voglio partire? Beh, da una notizia che c'è in prima pagina sul Corriere della Sera, c'è anche per la verità sulla Stampa e sul Secolo XIX. Libero l'ex BR che sparò al sindacalista Rossa. La vicenda riguarda l'uccisione del sindacalista Guido Rossa, 24 gennaio 1979. La notizia è che è stata concessa libertà condizionale a uno degli assassini, a colui che sparò per primo, Vincenzo Guagliardo, dirigente delle BR, che sparò i primi colpi all'operaio sindacalista Guido Rossa. Le altre volte gli avevano detto di no, scrive Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, pagina 20. I giudici volevano che anche lui scrivesse ai parenti delle vittime per chiedere perdono, dirsi rammaricato del dolore provocato, ma Guagliardo non lo ha mai fatto perché riteneva di non avere il diritto di scoperchiare tombe rivolgendosi a coloro a cui già aveva fatto del male sparando, commettendo e deliberando omicidi. Se fossero stati loro a chiederlo, aveva detto Guagliardo ai giudici, lui sarebbe stato disponibile a tentare di spiegare le ragioni degli errori commessi, ma non si sentiva di poter fare il primo passo per ottenere un beneficio personale. Per questo era uno degli ex militanti, uno delle Brigate Rosse, ancora in carcere. Ora c'è stata la libertà condizionale anche perché la figlia di Guido Rossa, Sabina Rossa, che tra l'altro oggi è deputato del Partito Democratico, nel 2004 incontrò Guagliardo, andò dai giudici a dire non è che Guagliardo non voglia chiedere perdono perché non si sentiva responsabile, ma perché non vuole rischiare di apparire un opportunista e ottenere appunto dei benefici rispetto al carcere. Alla fine questa libertà condizionale è stata concessa e oggi Sabina Rossa, la figlia di Guido Rossa, dice «è giusto così, è una decisione che aspettavamo da tempo, credo che 31 anni di carcere siano sufficienti anche per chi è condannato all'ergastolo, pena in linea con la nostra Costituzione». E dunque la figlia della vittima dice «è giusto, libero l'ex brigatista che sparò al sindacalista Rossa, è avvenuto nel 1979. La seconda segnalazione l'ho trovata in prima pagina del Secolo XIX perché riguarda Ruby, Ruby Rubacuori, Karima El Marug, non c'è bisogno di dirvi chi è diventata abbastanza famosa in Italia, no? Ruby sposa i paletti della curia. Allora, si era diffusa la notizia, falsa, vera, non si sa, un'indiscrezione, diciamo, che Ruby potesse sposarsi con il fidanzato Luca Risso. Un'indiscrezione che è arrivata anche alla curia del cardinale, alla curia di Genova, del cardinal Bagnasco, e per questo, scrive il Secolo XIX, è stata presa la decisione di preavvisare i parroci via mail, invitandoli semplicemente a fare che cosa? A non fare sconti a nessuno, né a loro, né a qualsiasi altra coppia che non rispettasse le regole molto precise per accedere al sacramento del matrimonio. Dunque, attestato di frequenza dei corsi prematrimoniali, rigorosamente pubblici, niente lezioni private. Carte in regola per quel che riguarda i sacramenti che ogni cattolico deve ricevere, dal battesimo alla cresima. E ovviamente documenti regolari. Insomma, pare che, scrive il Secolo XIX, allarmata da qualche indiscrezione di un possibile imminente matrimonio annunciato su Facebook, per la verità, matrimonio religioso, da Luca Risso con Ruby Rubacuori, il cardinale Bagnasco e la Curia di Genova abbiamo mandato questa mail, una circolare a tutti i parroci che al secolo confermano, alcuni di loro dicono effettivamente abbiamo ricevuto una mail che raccomanda, insomma, che tutti i matrimoni devono seguire lo stesso percorso, corsi prematrimoniali, sacramenti, eccetera, i documenti necessari, ed ecco il secolo ci fa un pezzo. Ruby, niente sconti per le nozze, la curia avvisa i parroci, la sposa segua il corso e riceva i sacramenti. La notizia certamente più sviluppata, o le notizie più sviluppate dai giornali, provengono tutte da quel vertice italo-francese che c'è stato ieri. Interessante anche il retroscena che troviamo sui giornali. Beh, intanto la vicenda della Libia, che ricordo è il tema del nostro sondaggio: bombarderemo anche in Libia? Questa è la scelta sulla quale vi chiediamo di esprimervi. Beh, due sono i temi: il via libera di Napolitano e Raid, come titola pagina 17 Il Sole 24 Ore, per il capo dello Stato è il naturale sviluppo della missione nel solco del voto parlamentare di marzo, dunque nulla osta per il capo dello Stato, mentre il secondo tema più sviluppato, più prettamente politico, è il gelo Bossi Berlusconi sulle bombe. Questo è un altro titolo del Sole 24 Ore a pagina 16. Insomma, sembra che di questi bombardamenti siano contenti soprattutto chi? Beh, i cosiddetti ribelli di Tripoli, i ribelli della Libia. Umberto Di Giovannangeli sull'Unità, pagina 18-19, intervista uno di questi esponenti, Ali Abdelaziz Alisawi, è un ex ministro, è l'attuale ministro degli esteri, diciamo, del governo di Bengasi, è l'ex ambasciatore della Libia in India, che poi ha disertato, ha cambiato campo, e che dice: finalmente l'Italia ha deciso di fare ciò che da tempo chiedevamo. La verità è che sulla questione bombardamenti, beh, se leggete i giornali, davvero non ce n'è uno che sia favorevole. Forse Il Giornale dice, la versione più edulcorata, Berlusconi ha tranquillizzato e ha rassicurato Bossi. Beh, basta leggere, che ne so, La Padania, l'organo ufficiale della Lega, perché c'è un titolo e un editoriale davvero al vetriolo: Berlusconi si inginocchia a Parigi. Questo è il titolo della Padania di oggi, e l'editoriale di Carlo Passera, che scrive così: tutta l'irritazione, a dir poco, che via Bellerio, per inciso, è la sede della Lega, ha accumulato dopo la più che ingloriosa conclusione del vertice italo-francese, si materializza quando si apre la porta che collega la sede leghista alla redazione del nostro quotidiano. A entrare è il segretario Umberto Bossi, di umore nero più del consueto. Il direttore, che conosce bene la sensibilità bossiana, blocca la prima pagina. Sono chiarissimi i segnali di guerra. Non occorre essere fini analisti per capire che il bersaglio del malumore, altro termine assai soft, del leader del Carroccio, sono le scelte non concordate, men che meno condivise, del premier Silvio Berlusconi. Siamo diventati una colonia francese, la sintesi efficace fino alla brutalità che Bossi escogita per suggellare una giornata che ha visto il governo italiano, nella figura del proprio massimo rappresentante, del tutto supino di fronte alle richieste arroganti. Nicolas Sarkozy urlava: io voglio questo, io voglio quello. Ed è fin troppo ricco il cahier de doléances, tanto per rimanere in orbita transalpina, che i vertici leghisti recapitano a Palazzo Chigi. Insomma, questo è l'editoriale della Padania, cioè dire: l'Italia è stata, con il suo massimo esponente Berlusconi, totalmente supino, e Bossi che dice: siamo alla colonia francese. E questo è sulla Padania, dunque il quotidiano più ufficiale della Lega. Ma poi su tutti i retroscena, per Repubblica, la rabbia del Carroccio dopo il vertice, Silvio la smetta di prenderci in giro, per il Corriere della Sera addirittura a pagina 6 c'è un articolo di Paola Di Caro: Berlusconi e il Senatur al limite della rottura. Pare che, secondo l'ala nordista, scrive il Corriere, quella più vicina al Carroccio addirittura sia ormai quasi alla rottura, situazione deteriorata. Calderoli già dice: per questa guerra ci sarà un aumento delle tasse, in particolare della benzina. Insomma, tutta una partita politica molto molto tesa, e che ci sia l'errore certificato, ovviamente quotidiani come, non so, Il Manifesto per esempio fa un editoriale con Valentino Parlato in prima pagina. Il Manifesto per esempio attacca molto napolitano. Valentino Parlato, tra l'altro, oltre ad essere il fondatore del Manifesto, è una persona che di Libia se ne intende molto, è nato in Libia, conosce personalmente Gheddafi, è stato proprio mandato via negli anni in cui Gheddafi mandò via tutti gli italiani. Presidente, le bombe no, questo è il titolo dell'editoriale di Valentino Parlato, si rivolge proprio a Giorgio Napolitano: abbiamo il massimo rispetto per la persona e il fare del Presidente della Repubblica, ma il rispetto non esclude il dissenso, anzi si dissente solo da soggetti importanti e rispettati. Era necessario da parte del Presidente della Repubblica questo esplicito consenso, cioè al bombardamento? Forse, ma è un consenso che non ci persuade, anzi respingiamo. Tanto che a pagina 2 il Manifesto titola «È guerra», e giocando sulla parola «il colle», insomma il Quirinale, titola «colle bombe», cioè dalla parte delle bombe, ma anche «colle bombe». Per il Foglio anche l'errore blu di Berlusconi: forza e diplomazia era la carta buona per l'Italia in Libia, ora non più. Una guerra che continua, il Foglio a definire stolta, una stolta guerra di Libia, stolta perché anche se mozzassero la testa a Gheddafi, a parte la soddisfazione napoleonico-coloniale di due politici di medio livello come Sarkozy e Cameron, il risultato non cambierebbe. Anche Avvenire è duro come critica: Libia, solo raid mirati, questo è il titolo d'apertura, ma c'è l'editoriale di Andrea Lavazza che parla di questa guerra e scrive: già dura da troppo la guerra, l'escalation, l'Italia. Insomma, sono soprattutto davvero le critiche, le spaccature, anche le spaccature politiche con la Lega, molto molto nette. Tra l'altro c'è un interessante retroscena firmato Maurizio Caprara sul Corriere della Sera, pagina 9, di come si è andato dietro le quinte questo vertice italo-francese, perché davanti al mondo, davanti nella conferenza stampa, si sono visti un Berlusconi e Sarkozy molto sorridenti. La verità, secondo il Corriere, che ha preso qualche informazione, è che dietro le quinte è andato in scena uno scontro al calor bianco dai toni davvero imbarazzanti, secondo qualcuno, e sarebbe stato un Sarkozy infuriato. Sarkozy alza la voce con Berlusconi: basta attacchi sui tuoi giornali. Che cosa ha fatto arrabbiare Sarkozy? Beh, intanto una copertina di Panorama, testata di Berlusconi, nella quale è stato dipinto Sarkozy agghindato come Napoleone, col titolo Sarcofago, un paio di settimane fa. Pare che Sarkozy sia nato su tutte le furie per questa copertina, dicendo a Berlusconi: la smetta di farmi attaccare soprattutto dalle testate sue, insomma, vicini come per esempio Panorama. Pare che in questo vertice sia stato sdoganato il Bunga Bunga, con Berlusconi che si è messo a spiegare la sua versione sul Bunga Bunga, un Sarkozy che secondo il Corriere è parso in imbarazzo, addirittura il ministro francese dell'economia Christine Lagarde, che al momento della spiegazione del Bunga Bunga si è girata dall'altra parte. Questo per il Corriere. Nella delegazione italiana c'è chi in privato ha definito quasi inaccettabili i toni di Sarkozy, che si è messo a urlare appunto chiedendo, pretendendo. Pare che Sarkozy anche abbia detto: sì, sosteniamo la candidatura alla Banca Centrale Europea di Mario Draghi, so che il governo ha una posizione ma Tremonti ne ha un'altra. Insomma, niente male come vertice di pacificazione. Si vocifera che in maggio a Bengasi potrebbero volare Sarkozy, Berlusconi e il premier britannico Cameron, ma scrive il Corriere, se è vero non andranno di certo sullo stesso aereo. Questo per dire che secondo il Corriere il clima dietro le quinte è stato un clima tutt'altro che sereno. Anche Libero, che già ieri attaccava, oggi attacca nuovamente con un editoriale anche del suo direttore Maurizio Belpietro: brutto affare. La sintesi è questa: Parmalat e Draghi alla Francia, a noi gli immigrati. Che affare! Maurizio Belpietro dice: per carità, non ci permettiamo di fare i conti a Berlusconi, il quale con gli investimenti dimostra di saperci fare come pochi altri al mondo, ma poi mette 1, 2, 3, 4, la questione Libia, immigrati, Lactalis, la questione Banca Centrale Europea, e dunque Belpietro dice: vediamo di ricapitolare, se abbiamo capito bene le intese raggiunte ieri, prevedono di cedere il governatore di Banca Italia alla BCE, la Parmalat alla Lactalis e i nostri aerei agli interessi militari elettorali del signor Bruni, lo definisce così il signor Bruni, in cambio otterremmo di tenerci i tunisini e tutti gli altri in arrivo sulle nostre coste. Come abbiamo detto, non abbiamo requisiti per poter impartire lezioni a Berlusconi, ci permettiamo però una domanda: non potevamo tenerci Draghi e cedere i clandestini a Sarkozy? Insomma, anche per Libero è un imbroglio francese questo vertice nel quale tra l'altro c'è stata anche questa ammissione di Berlusconi sulla questione nucleare, che ha fatto infuriare l'opposizione. Berlusconi che cosa ha detto? Beh, ha detto apertis verbis quello che in realtà già nell'opposizione molti anche giornalisti avevano ipotizzato, cioè lo stop al nucleare è stato fatto in maniera strategica perché bisognava bloccare probabilmente un referendum sul quale magari si votava sull'onda del disastro di Fukushima, la gente andava a votare a giugno no al nucleare, e Berlusconi ha ammesso di fatto è così. Insomma, infatti tutti i giornali, l'Unità è dura, gli scappa la verità sul nucleare, dovevamo evitare il referendum. Per il Corriere della Sera Berlusconi rilancia sul nucleare, stop solo per la paura della gente. Tra l'altro c'è un'intervista al ministro Romani sul Corriere della Sera che dice non c'è alcuna contraddizione, serve tempo per il nodo sicurezza. E ora l'opposizione dice beh, siccome sul referendum è ancora tutto aperto e dovrà decidere la Cassazione a questo punto prenda spunto da queste ammissioni del Presidente del Consiglio per dire è stato fatto tutto per fermare il referendum, per dire beh, allora a questo punto il referendum si faccia. In realtà, come scrivono i vari giornali, insomma i più, devo dire, meno partigiani su questo, non è che la Cassazione possa decidere su delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. La Cassazione decide su fatti e dunque su il decreto legge che verrà presentato dal governo di sospensione del nucleare, e su quei fatti, cioè sui decreti, sulle parole, sugli atti, deciderà la Cassazione, non certo sulle conferenze stampa del Presidente del Consiglio. Vabbè, insomma, questo vertice della Francia ha regalato molto, no? Avete visto, tanti temi di discussione, la Libia, c'è anche la questione Lactalis che tra poco vedremo, c'è poi la questione sullo sfondo, diventa quasi un tormentone anche un po' ridicolo, che però anche oggi sui giornali conquista 3-4 pagine, e che noi tratteremo alle 8:20 della nostra intervista con il capogruppo dei responsabili alla Camera, Luciano Sardelli. Il tormentone ridicolo è quello del rimpasto di governo. Ridicolo nel senso che se ne parla ormai da mesi. Però pare, leggendo i giornali, che siamo vicini. Il Sole 24 Ore, a pagina 19, decolla il rimpasto di governo. Calearo e Misiti verso la poltrona di viceministri. 7 nuovi sottosegretari. Per il Corriere, rimpasto si accelera, responsabili al governo, ma fuori Razzi e Scilipoti, che pare verranno tenuti fuori, mentre dovrebbe essere promossi la Katia Polidori, Aurelio Misiti, Bruno Cesario, Roberto Rosso, Luca Bellotti, Daniela Melchiorre, Francesco Pionati e Massimo Calearo. Repubblica, venerdì rimpasto, 6 poltrone ai responsabili. Insomma, non si capisce quante saranno le poltrone, lo chiederemo all'onorevole Luciano Sardelli, che dei responsabili è il capogruppo, alle 8:20. Quante poltrone chiedono, quante poltrone otterranno, a quante poltrone pensano di ambire. Staremo a vedere che cosa ci risponderà. Come detto, invece, l'altra questione certamente interessante emersa dal vertice italo-francese, la questione Lactalis che ha lanciato un'OPA su Parmalat. E allora Sarkozy, Monsieur Sarkozy, si è presentato qui al vertice italo-francese, e poche ore prima dell'arrivo di Sarkozy al vertice si è diffusa la notizia, che oggi è sviluppata su tutti i giornali, che Lactalis allora vuole giocare veramente duro e decisa sulla questione Parmalat. Lactalis ha calato l'OPA su Parmalat, 2,6 euro per ciascuna azione in circolazione, leggo dal Sole 24 Ore a pagina 3. La svolta su Parmalat, l'OPA lanciata, a meno di colpi di scena improbabili si avvia a chiudere la partita. La borsa già ci crede, fa sapere Antonello Olivieri, con un balzo del 10,73% di Parmalat, il titolo di collecchio, insomma, ieri si è subito collocato a ridosso del prezzo dell'offerta annunciato. E a lanciare l'OPA materialmente sarà Sofil, che fa capo interamente alla famiglia Besnier, dunque i proprietari di Lactalis. Il prospetto dell'OPA in lavorazione sarà pronto tra la fine di questa settimana e la prossima. Berlusconi l'ha definita un'OPA, un'iniziativa singolare, ma non un'operazione ostile, mostrando dunque di aprirsi a quel, di sottostare alle regole del mercato, quelle regole del mercato che Repubblica, tra l'altro, fa notare di fronte a questa dicitura c'era un Tremonti impassibile mentre sentiva parlare Sarkozy e Berlusconi della libertà, delle regole del mercato, un Tremonti che, lo ricordiamo, aveva proposto anche questo, diciamo, un'iniziativa per, in difesa in qualche modo dell'italianità, no? Oggi su Repubblica Roberto Mania fa proprio il ritratto di Tremonti, definito sconfitto dai mercati. La decisione del gruppo della famiglia di Besnier di lanciare quest'OPA totalitaria su Parmalat ha dato ragione agli economisti, ha smentito l'ambizioso progetto normativo di Tremonti, che ieri appunto a Villa Madama è rimasto impassibile in ascoltare i presidenti Sarkozy e Berlusconi che esaltavano il ruolo del libero mercato. Anche se Tremonti, in un virgolettato a Repubblica, dice: io non ho mai pensato in realtà di alzare barricate per difendere l'italianità di Parmalat. Non è vero che questo fosse l'obiettivo del decreto per far slittare le assemblee e poi dell'emendamento per rafforzare il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti. Non abbiamo mai pensato a una funzione difensiva del fondo della Cassa, ma servirà piuttosto aiutare e consolidare le imprese italiane. Sta di fatto che l'OPA è lanciata. Sempre Antonella Olivieri, in un'interessante analisi sul Sole 24 Ore, pagina 3, ci racconta che il conto lo pagheranno poi gli italiani. Perché? Perché nelle casse di Collecchio, di Parmalat, c'è 1,4 miliardi di euro, un tesoretto che non è stato sufficiente a smuovere l'iniziativa di qualche gruppo italiano, ma che invece ha attirato le mire di molti operatori esteri del settore, e Lactalis è stata la più rapida di tutte, e l'OPA sarà interamente finanziata a debito e a pagare il conto sarà sempre Parmalat. Questo tesoretto di 1,4 miliardi di euro verrà infatti assorbito per la funzione. E insomma, i francesi si sono mossi, gli italiani no. Pagherà l'Italia? E beh, intanto staremo a vedere anche quello che succederà in questo colosso nuovo, la nascita di Lactalis Parmalat, se sarà così come si pensa. Paolo Bricco racconta già a pagina 5 del Sole come nascerà e come potrebbero essere gli sviluppi di questa nuova big da 14 miliardi di ricavi, con un totale di 38.000 addetti dipendenti a Lactalis e 14.000 per Parmalat, dunque fa un totale circa di 50.000, più di 50.000, 52.000. Bisognerà vedere il nuovo assetto come si organizzerà per quel che riguarda la partita di Collecchio. Oggi Oscar Giannino si occuperà della questione del 1° maggio con i negozi aperti. Vi segnalo su questo due interessanti articoli. Il primo sul 1° maggio è un editoriale di Rene Tinagli, economista, sulla prima pagina della Stampa: il 1° maggio e vecchie barricate mentali. E poi vi segnalo anche due articoli che si concentrano invece su una vignetta, li trovate sia sul Libero che il giornale lo mette in prima pagina, una vignetta che ha fatto molto discutere per lanciare lo sciopero della CGIL del 6 maggio prossimo. C'è questa vignetta in cui un bambino dice a un nipote, un nipote dice a un nonno che tiene il bastone: nonno, ma ti serve il bastone per camminare? No, tranquillo Paolino, cammino benissimo, ma mi serve nel caso incontrassi il premier. E allora da questa vignetta la CGIL incita a usare il bastone contro il cavaliere, così titola Libero e anche prima pagina Il Giornale, la vignetta che non offende, che non fa indignare nessuno, la CGIL, bastonare Silvio si può. È un manifesto diffuso nei giorni scorsi dalla CGIL per lanciare lo sciopero del 6 maggio. Ne parlerà Oscar Giannino del 1° maggio invece, dei negozi aperti alle 9. Io voglio fare, di solito sapete, di cronaca nera, di cronaca in generale, insomma in rassegna stampa ne parlo poco, ma oggi mi ha molto colpito questa vicenda dell'aggressione brutale da parte di questo gruppo di ragazzi, uno maggiorenne e gli altri tre minorenni, nei confronti di due carabinieri che li avevano fermati poco prima o poco dopo un rave party per un normale controllo a posto di blocco. La furia cieca, uno di questi due militari è in fin di vita, un altro rischia di perdere un occhio. Tra l'altro c'è Matteo Gorelli, 19 anni, l'unico maggiorenne che viene dato in lacrime ora, Il picchiatore del rave in lacrime, lucido e spietato, dice il magistrato, resti in cella. Tra l'altro c'è lo sfogo di suo padre. Sentite suo padre con che dignità e con che fermezza parla di suo figlio. Non voglio vederlo, mi vergogno di incontrarlo. Questo padre che ha una vita onesta da spurgatore di tombini sulle strade di Empoli. Se è vero quello che mi hanno detto e che ho letto sui giornali, cosa gli posso dire a questo figlio? Come faccio a guardarlo negli occhi? Qui ci sono due ragazzi per bene, eroi, i carabinieri, che lavorano sulla strada come me e qualcuno li ha colpiti come carne da macello. Sta parlando di suo figlio, eh? Prima di vedere Matteo, voglio andare a chiedere perdono ai militari e alle loro famiglie. Lui ora deve stare in carcere. Questo è il padre che parla del figlio. E poi voglio leggere l'amaca di Michele Serra oggi su Repubblica, mi ha molto colpito. Michele Serra oggi scrive così: il pazzesco pestaggio dei due carabinieri in Toscana innesca l'inevitabile angoscioso dibattito sulle responsabilità degli adulti, genitori sconvolti, autorità sbigottite, chiunque abbia un figlio di quell'età che si chiede quanto lo conosce, se davvero lo conosce. Tutto dolorosamente giusto, ma forse manca, e manca da troppo tempo, anche un bel dibattito sulle responsabilità dei ragazzi. La responsabilità è un peso dell'individuo, di ogni singolo individuo. Ambiente, società, educazione, modelli di comportamento hanno il loro peso, ma a guidare i pensieri, la testa e le mani è ciascun essere umano. Né la migliore società, né il miglior genitore, né la migliore scuola possono governare fino in fondo le azioni di un ragazzo e determinarne il destino. Forse gli adulti dovrebbero parlare meno delle loro responsabilità e più delle responsabilità dei loro figli. Riusciamo a essere invadenti, perfino rispetto alla colpa, al dolore, parliamo dei figli come fossero sacchi vuoti, che solo le nostre virtù e i nostri vizi possono riempire. Ci rimproveriamo di parlare poco ai figli, ma i nostri genitori con noi parlavano anche meno. Era scontato che toccasse a noi, a scuola, con gli amici, poi nel lavoro, essere ciò che eravamo, diventare ciò che eravamo capaci o no di diventare. Anche per questo, forse, siamo diventati adulti più in fretta, in grado di affrontare una ramanzina dei carabinieri senza uscire di senno. Questa è la macca di Michele Serra, effettivamente colpisce molto, insomma, si è aperto il dibattito sui giornali sul rapporto tra genitori e figli dopo questa terribile aggressione. Che dire, in tutti questi temi molto, molto pregnanti, molto interessanti, dobbiamo parlare anche del matrimonio del secolo? Io ve l'ho detto, io non ci capisco molto. Il giornale pone questa domanda, ma queste nozze, che è anche la mia domanda, sono davvero imperdibili? William e Kate sono davvero imperdibili, lo chiedo anch'io? Perché pare sia così, insomma. Io le perderò sicuramente, su questo non ci sono dubbi, però ci sono articoli sui giornali. Quello di oggi del giorno è: che cosa dirà Harry, vale a dire il fratello, che dovrà fare il discorso in nome al banchetto nuziale? Cosa dirà? Tutti che si sbizzarriscono. Prepara un discorso da far cadere i capelli a mio fratello. Cosa dirà? Dirà delle cose imprudenti? Dirà delle cose poco conformi a quello che è tutto il cerimoniale? Di certo forse non ricorderà Harry di quando, in una festa di carnevale, ricordo io, si vestì tutto agghindato da nazista. No, questo credo che lo terrà fuori dal banchetto del matrimonio del secolo. Ci fermiamo per il notiziario e poi riprendiamo.